Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Noi siamo italiani, il problema è che noi giovani in particolare siamo seduti là aspettando che qualcuno faccia qualcosa, e se si continua così non ha senso. Perciò se vogliamo che qualcosa cambi, noi ci si rimbocca le maniche e si fa quello che si deve. E perciò perché non fare quello che abbiamo visto e quello che noi stiamo utilizzando fuori? Non è facile, si prova, però se non si prova mai è troppo semplice lamentarsi, basta. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Nuova tornata di cartoline ad aprire le nostre puntate, questa volta in arrivo dal progetto Brain Back Umbria, del quale vi abbiamo ampiamente parlato nei mesi scorsi. Ilenia Baldelli, rientrata in Italia dall'Austria per sviluppare un progetto imprenditoriale imperniato su una piattaforma online per la commercializzazione di prodotti farmaceutici, ci ha spiegato cosa l'ha spinta a tornare nel bel paese, con tanta grinta e voglia di rischiare controcorrente. Nelle prossime settimane ascolteremo nuove storie di giovani imprenditori controesodati grazie a Brain Back Umbria. La frase della settimana è copyright del presidente della Camera Laura Boldrini. La fuga di cervelli va fermata. È bene che i giovani abbiano la possibilità di andare all'estero per fare esperienza, ma bisogna che possano poi tornare in Italia con un progetto serio e sostenibile di vita. Aggiunge il premier Enrico Letta, le nuove generazioni devono provare a restare in Italia per dare speranza nel futuro al paese. Prima occorre però anche ricostruire questa fiducia nel paese, soprattutto da parte dei giovani. Come denuncia l'indagine Acri Ipsos, fra i 18 e i 30 anni gli ottimisti sono scesi in un anno dal 24 al 4%, con una perdita di ben 20 punti percentuali. Oggi così, per consolarci, vi portiamo a Bruxelles a reincontrare la folta comunità di brillanti connazionali al lavoro nella capitale d'Europa. Molti di loro se ne sono andati proprio dopo aver perso la fiducia nell'Italia. Io l'ho vissuta sulla mia pelle, perché sia in ambito pubblico sia in ambito privato la storia è sempre stata la stessa. Io sono sempre passata da un contratto a tempo determinato, un contrattino interinale all'altro. Stella Biondi, 34 anni, è Project Officer alla EACEA, l'Agenzia Europea per Education, Audiovisual and Culture. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. Non solo cervelli o giovani in fuga, anche i manager vanno via dall'Italia. Secondo Astra Ricerche, negli ultimi anni il fenomeno risulta in forte crescita. Quasi 1000 all'anno espatriano per lavoro, oltre 10.000 quelli che lavorano stabilmente oltre confine. Chi va all'estero, spiega la ricerca, lo fa volutamente. Nel 93% dei casi, il 97% è molto o abbastanza soddisfatto del lavoro oltre confine. Bocciata sul fronte lavorativo, l'Italia resta comunque per i manager espatriati il miglior paese dove vivere. Quasi tutti tornerebbero nella penisola durante la vita lavorativa, ma i principali motivi sono però quasi solamente affettivi. E sono mosche bianche i manager under 30 nelle stanze dei bottoni italiane. Nel 2012 erano appena il 2,3%, persino in calo rispetto al 2009, lo segnala Unioncamere, evidenziando quanto i giovani italiani siano demotivati. Tra gli occupati under 30 solo l'1% è alla ricerca di un lavoro migliore. In soli 3 anni è crollato di 1 milione il numero degli under 35 che lavorano, 750.000 dei quali nella fascia 25-34 anni, lo afferma l'Istat. Il tasso di occupazione è calato soprattutto tra i giovani uomini del sud. Se si guarda al complesso degli under 35, il tasso di occupazione nazionale risulta in calo al 40,4%. Oltre la metà dei lavoratori under 25 ha un impiego precario, lo calcola l'OCSE, la percentuale di precari è quasi raddoppiata rispetto al 2000. Sempre secondo l'OCSE, solo Grecia e Turchia fanno peggio di noi per numero di net. Conferma Confindustria, in Italia sono 2.250.000, il 23,9%, i giovani tra i 15 e i 29 anni fuori sia dal lavoro che dalla formazione, più 21% dall'inizio della crisi. I professori universitari italiani hanno una media di 63 anni, ma ben un quarto ha oltre 60 anni, contro poco più del 10% in Francia e Spagna e l'8% in Gran Bretagna, lo denuncia Coldiretti. In generale l'età media della classe dirigente italiana è 58 anni. L'Italia ha solamente 4 addetti alla ricerca ogni 1000 occupati, la Francia ne ha 9, Germania e Regno Unito 8, persino la Spagna 7, lo denuncia la conferenza dei rettori. Ci sono pure buone notizie, l'ultima arriva dall'Università di Parma, che ha annunciato di aver fatto rientrare dopo 10 anni a Berlino il professor Roberto Fornari, direttore di uno dei più prestigiosi centri tedeschi di ricerca sui materiali avanzati. E buone notizie anche dall'Europa, parte a gennaio Erasmus Plus, programma che con un budget di 14 miliardi aiuterà oltre 4 milioni di giovani europei a studiare o effettuare una formazione all'estero nei prossimi 7 anni. Via libera del Consiglio europeo a 900 milioni di pagamenti per la garanzia giovani. Infine 3 miliardi saranno destinati alla lotta contro la disoccupazione giovanile nel periodo 2014-2020. Prosegue oggi la nostra inchiesta tra i giovani professionisti che scelgono di rientrare in Italia. A giovanitalenti@radio24.it ha scritto Sandro Donnici, ingegnere informatico controesodato dalla Svezia a Roma. Sandro ci racconta la sua storia. Dopo essermi laureato alla Triennale qua in Italia, ho cercato di andare all'estero per fare il master. E ho trovato a Stoccolma, diciamo, un'opportunità molto buona, l'università era molto prestigiosa, quindi ho preso questa decisione e sono salito su per fare il master. Dopo 2 anni di master, diciamo che ho provato lavoro subito, io comunque sono nel campo dell'informatica. E perché poi hai deciso di tornare in Italia? La mancanza della famiglia, degli affetti, degli amici e tutto. Però da una parte anche la voglia di tornare qua e mettermi in gioco comunque nel paese da cui sono partito. Com'è stato il ritorno in Italia, soprattutto professionalmente? Certamente dal punto di vista economico, un altro mondo sono in Svezia, però dal punto di vista lavorativo diciamo che l'impatto non è stato così diverso da come mi trovavo su. Ancora in tema di controesodati, sarà presentata lunedì a Milano la Fonderia dei Talenti, la prima piattaforma online nata per connettere professionisti italiani all'estero, aziende della penisola e professionisti in Italia. La Fonderia nasce come braccio operativo della legge controesodo. Tutte le info su lafonderia.org. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta ancora una volta a Bruxelles, capitale dell'Europa comunitaria, insieme a Londra, Berlino e Parigi, una delle città irrinunciabili per chi cerca un lavoro e un futuro fuori dall'Italia. Nome. Stella. Cognome. Biondi. Età. 34. Città di origine. Forlì. Studi. Laurea in economia e commercio e master in studi europei. Anno in cui hai lasciato l'Italia. 2009. Per andare dove? A Bruxelles. Perché? Perché ho vinto un concorso di istituzione europea. Qual è il lavoro svolge attualmente? Project officer. Dove? Nella Commissione europea. Tornerai? Mi piacerebbe, ma non credo. Ho partecipato a un concorso per project managers nelle istituzioni europee e senza avere alcuna conoscenza né raccomandazione l'ho passato. Stella, iniziamo da qui oggi a raccontare la tua storia. Leggendo e rileggendo la lettera che hai inviato a giovanitalenti@radio24.it mi sono continuamente chiesto perché i nostri giovani espatriati ci tengono sempre a sottolineare di essersi guadagnati un lavoro per merito all'estero. Siamo diventati un paese così corrotto nei suoi meccanismi di selezione che lo si dà quasi per scontato che in Italia occorre conoscere qualcuno per lavorare. La mia pelle, perché sia in ambito pubblico sia in ambito privato la storia è sempre stata la stessa. Io sono sempre passata da un contratto a tempo determinato, un contrattino interinale all'altro, perché dovevo sempre lasciare poi il posto a qualche parente, a qualche amico dei titolari nel privato e nelle istituzioni pubbliche invece dei dipendenti. Quindi la storia non è mai cambiata, anche da me i concorsi sono sempre creati, spesso, non sempre, comunque creati a persona. È un quadro veramente desolante quello che ci restituisci, Stella. Tra l'altro ne approfitto per ringraziarti perché ci raggiunge oggi in non perfette condizioni fisiche. La tua è una storia molto interessante anche perché sottolinea una volta di più il valore dello studio in un paese dove l'istruzione non paga. Tu infatti inizi a lavorare presto, subito dopo il diploma, per 7 anni sei impegnata nel settore del project management all'interno della pubblica amministrazione. Ho scalato faticosamente la strada delle amministrazioni italiane, riassumi. Cosa si nasconde, ti chiedo, dietro a quell'aggettivo faticosamente? Ho sempre dovuto fare salti mortali per avere un contratto. Nelle amministrazioni pubbliche riuscire ad avere contratti di collaborazione anche passando concorsi è durissima, quindi dovevo alternare periodi in cui venivo pagata a periodi in cui lavoravo completamente gratis, quindi comunque gli stipendi erano sicuramente più alti del personale che era assunto, ma questo mi causava moltissime invidie, in realtà inimicizie. Ti specializzi con gli anni nella gestione di progetti universitari a finanziamento europeo, quasi una premonizione o forse solo il primo tassello verso il tuo futuro a Bruxelles. Come arrivi su questa strada? Sono arrivata per caso, ho fatto un colloquio in un istituto universitario come segretaria e lì invece mi hanno proposto appunto di occuparmi di progettazione, per cui ho iniziato così. Piccolo passo indietro, poco fa abbiamo menzionato l'importanza dello studio in un paese che sforna pochi laureati e soprattutto negli ultimi 20 anni ha impostato la promozione sociale dell'ignorante. Lo dico per sottolineare lo sforzo che hai fatto tu per arrivare al titolo di studio. Perché e quando hai scelto di iscriverti all'università? Io in realtà ho sempre saputo che mi sarei iscritta in un secondo momento all'università, era uno dei miei obiettivi, però ho deciso di farlo nel 2004 quando ho cambiato città, stavo iniziando una nuova vita, quindi ho sentito che era il momento giusto e ho seguito il corso di studi che era poi più vicino alla mia esperienza professionale, quindi gestione degli enti pubblici proprio ai economia e commercio. E quanto ti è costato in termini di sacrifici studiare e lavorare contemporaneamente? Io farei due distinzioni. In Italia è stato facilissimo e in Belgio invece è stata durissima perché poi ho seguito appunto un master in Belgio. Se dovessi dare tu un voto all'università italiana? Beh, a questo punto direi che sarebbe assolutamente negativo perché gli argomenti di studio erano veramente basilari, tutto scontato, poco realistico. Sinceramente io ho vissuto veramente di rendita, preparavo un esame in generale in 3 giorni, al massimo una settimana. Torniamo al tuo lavoro, abbiamo già citato i 7 anni di lavoro nel project management, di cui 5 con collaborazioni CocoPro presso una università del nord-est in cui gestivi un team di 30 persone da 18 paesi diversi. Per una volta possiamo dirlo, un'esperienza di lavoro positiva in Italia. E come ricordi quella tappa professionale? Direi che è stato un periodo bellissimo perché è stato estremamente gratificante anche se molto intenso. Viaggiavo 20 giorni al mese come minimo in tutta Europa, in tutta la Russia, fino al Giappone quasi. Direi che veramente era arrivata al massimo apice immaginabile per un project manager. E cosa interviene nel 2009 a cambiare la tua vita? Ho dovuto chiudere con l'università perché mi era scaduto l'ultimo contratto e non potevano più rinnovarlo. Fosse stato per l'Italia, infatti, tu ci scrivi, mi sarei ritrovata per strada. E pensare che in università avevano fatto poi carte false per tenermi denunci. Una situazione kafkiana e paradossale, diremmo. Quale spietato mix di condizioni di legge ti ha strappato letteralmente dal tuo lavoro? Nel 2009 mi scadeva l'ultimo contratto, no? Quindi erano uscite nel frattempo le ultime 2 leggi finanziarie, 2007 e 2008, e vietavano i contratti di collaborazione per le pubbliche amministrazioni per più di 36 mesi, altrimenti ne avrebbero dovuto stabilizzare a tempo indeterminato. E in più la legge prevedeva che per essere titolare di un CocoPro con le istituzioni pubbliche ci volesse una laurea magistrale. Io avevo appena finito la laurea triennale, quindi già non mi serviva niente. Durante gli ultimi mesi di permanenza in Italia sperimenti anche il peggio che questo paese è in grado di offrire. Finisce a lavorare gratis per un altro ente con la solita promessa di un contratto futuro che forse un giorno arriverà. E con la solita intrallazzatissima dirigente che quando la saluti per dirle beh io vado a Bruxelles e lei ti risponde con il classico disprezzo che in Italia chi sta in alto riserva a chi sta in basso. Cosa ebbe il coraggio di dirti? Sperava che per me fosse vero perché altrimenti non avrei mai più lavorato nella sua città se l'avessi lasciata in quel momento. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Nel 2009 ho fatto le valigie per il Belgio, dove non solo ho potuto permettermi per la prima volta di vivere da sola senza coinquilini, ma soprattutto dopo neppure un anno di contratto a tempo determinato ho potuto accendere un mutuo al 100% del valore della casa in Italia. Pura utopia, scrivi soddisfatta a giovanitalenti@radio24.it. Stella, con quale incarico a Prodi a Bruxelles? Project Officer contrattuale alla DG Ricerca, mi occupavo di relazioni internazionali. E alle relazioni internazionali per la ricerca della Commissione Europea resti 3 anni, poi vieni trasferita in un altro settore. Dove ora ti trovi? Di cosa ti occupi? Di progetti di cittadinanza e gemellaggio, sono quindi project officer dell'Agenzia Educazione Audiovisivi e Cultura della Commissione Europea. Il paradosso è che parli 6 lingue, di cui 4 correntemente, nel nord Europa hai anche completato un master in studi europei, come dicevi, infine hai 15 anni di esperienza lavorativa alle spalle. Ebbene, nonostante tutto questo, quali opportunità professionali ti ha offerto l'Italia quando hai provato ciclicamente a rientrare? Veramente poco in realtà, perché gli stipendi sono talmente bassi che non riesco neanche a pagare eventualmente un affitto. Potrei al massimo cercare lavoro come impiegata estera nel privato. Comunque sarebbe una dequalificazione nel tuo caso. Assolutamente. Da poco è arrivata anche una bella notizia. Cosa hai vinto? Ho appena vinto un concorso a tempo indeterminato delle istituzioni europee. E quindi probabilmente ci resterai ancora per un bel po'. Domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Una proposta concreta da cui ripartire? Per me è fondamentale l'assenza totale di informazione, cioè si trattano letteralmente proprio come degli stufi nella televisione. Se guardiamo un telegiornale non ci sono informazioni, assolutamente. Per me è una proposta proprio fondamentale, ma basilare, è quella di spegnere le televisioni, di smettere di comprare i giornali, di informarsi in modo laterale, e questo, cioè, se lo facessimo veramente tutti sarebbe un grandissimo segno di protesta. Giovani talenti, Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Stella Biondi, 34enne funzionaria comunitaria a Bruxelles. Stella approda nella capitale europea al termine di un percorso molto particolare. Comincia infatti a lavorare dopo le scuole superiori all'interno di enti pubblici come project leader. La carriera è rapida, ma il problema è rappresentato dai contratti precari. Stella intanto si laurea in economia e commercio. La brutta sorpresa arriva nel 2009 quando alcune modifiche di legge le rendono impossibile mantenere il posto. Non si rassegna, vince un concorso alla Commissione Europea, si trasferisce a Bruxelles dove la vita cambia radicalmente. Da poco ha vinto un nuovo concorso come funzionaria a tempo indeterminato, ma spera sempre di tornare anche se l'Italia continua a non offrirle opportunità. Ci raggiunge ora in linea Federica Gramini, autrice del libro Prima o poi torno. Anche Federica lavora a Bruxelles ma al Parlamento Europeo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Italia nel mondo è sinonimo di eccellenza, incredibile ma vero. Ho imparato che dichiarare di essere italiana all'estero è già garanzia di fare una buona prima impressione. Così ha scritto Stella, giovani talenti, @radio24.it. Allora Federica, tu che hai redatto una delle più interessanti e attuali panoramiche dei nostri giovani professionisti a Bruxelles, quanto l'eccellenza italiana all'estero e i suoi migliori giovani proiettano un'immagine positiva del paese? Tantissimo, devo dire che c'è una solidarietà e anche un sentire comune tra gli italiani all'estero, questo è quello che ho riscontrato a Bruxelles, all'interno della comunità italiana. Non a caso il mio libro si intitola Prima o poi torno, proprio perché c'è questo desiderio comune, al di là del tradimento di un paese che ci ha lasciati partire, di fare ritorno alle proprie radici. Sul tradimento torniamo tra poco, prima di arrivare al tuo libro, la tua storia in breve, laurea in lettere moderne a Roma, anche per te che coincidenza l'arrivo a Bruxelles 5 anni fa, come ci approdi e soprattutto come si è poi sviluppata la tua carriera? Io ho iniziato con un tirocinio al Parlamento Europeo, vincendo la borsa Schumann, opzione giornalismo. Poi dopo questi 5 mesi al Parlamento Europeo ho fatto un altro tirocinio per l'International Federation of Journalists. Da lì poi sono entrata al Parlamento Europeo come ufficio stampa. Prima o poi torno a un libro di racconti di giovani italiani emigrati a Bruxelles. Storie di vita di cervelli in fuga. Bruxelles ha permesso a molti giovani di realizzare i propri sogni. Sarebbe difficile ascoltare oggi in Italia simili testimonianze, spieghi Federica nella sinossi del libro. Tutti conoscono Bruxelles come capitale europea, aggiungo. Forse però pochi sanno che lì la meritocrazia è un'altra cosa. Allora, con esempi concreti, ci spieghi come si applica la meritocrazia in Belgio? Sì, allora io ho raccontato storie di ragazzi che ce l'hanno fatta anche senza una laurea, senza dei master, e ho voluto raccontare queste storie proprio per dare una speranza ai giovani e per trasmettere il messaggio che se si ha un obiettivo e se si è tenaci, all'estero ce la si può fare. Se si ha voglia, se si ha talento, le occasioni si trovano all'estero, a differenza purtroppo che in Italia. E allora arrivo al punto centrale, Federica. Il filo conduttore dei racconti, scrivi, è il desiderio comune a molti emigrati a Bruxelles di tornare alle radici, nonostante quello che definisci il tradimento dell'Italia. Tornare per contribuire a migliorare il nostro paese attraverso il valore aggiunto acquisito. La storia di Stella è paradigmatica in questo senso. Sulla base della tua inchiesta, qual è la barriera che frena questo ritorno a casa? Fanno, insomma, paura all'Italia questi giovani liberi, indipendenti, europei, competenti, innamorati del cambiamento? Sì, sicuramente fanno molta paura, perché dopo aver trascorso molti anni all'estero, aver fatto tanti sacrifici, tra virgolette, pretendono, vorrebbero qualcosa di più, e purtroppo poi non riescono a capitalizzare tutto ciò che si è acquisito all'estero, appunto quel valore aggiunto in Italia, e lì in quel momento c'è il blocco. E poi spaventano le condizioni che oggi offre l'Italia, che sono delle condizioni terribili, come diceva prima anche Stella, bisogna fare i salti mortali per avere un contratto, figuriamoci poi un contratto a tempo indeterminato. Come andare dalla Serie A alla Serie B, se non addirittura alla C, per tradurla in termini calcistici. Sì. Grazie a Federica Gramegna. E domanda di rito per Stella Biondi: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Sicuramente il consiglio di non smettere mai di mettersi in gioco e di studiare, magari di imparare la lingua, di andare direttamente nel paese e vedere quali sono le occasioni, cioè non sempre si riesce alla prima occasione, quindi di continuare, perseverare, ma allo stesso tempo di essere flessibile, di integrarsi e adattarsi appunto alla comunità in cui va a vivere, perché questa cosa è fondamentale per il suo benessere personale e anche per soprattutto se pensa di rimanere in quel paese per creare una nuova vita. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo un economista, team leader per l'Austrian Development Agency a Tirana, in Albania. Scadenza per i CV 24 novembre, info su entwicklung.at. Un consulente legale alla CEFIC di Bruxelles, scadenza per i CV 5 dicembre, info su richcentrum.eu. E infine un data scientist per ScraperWiki a Liverpool in Inghilterra, scadenza per i CV 1 dicembre, info a scraperwiki.com. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi vi raccontiamo come un'associazione cosiddetta tradizionale degli italiani nel mondo, la UIM, abbia negli ultimi anni riorientato parte delle proprie attività verso l'assistenza alla nuova emigrazione, segno che i tempi stanno davvero cambiando. Alberto Sera, presidente dell'Unione Italiani nel Mondo, ci spiega i motivi della scelta. È un'associazione che riunisce gli emigrati italiani nel mondo e si appoggia, è stata promossa dal patronato della UIL, è presente in 26 stati del mondo. Tra le associazioni dedicate all'emigrazione più tradizionali, Unione Italiana nel Mondo è quella che mi sembra stia più affrontando il tema della nuova emigrazione. Perché lo state facendo? Molti genitori cominciano a chiederci aiuto per i loro ragazzi che vanno all'estero, e noi dal momento che per esempio in Europa siamo abbastanza presenti in tutte le nazioni, possiamo fare da ponte a trovare alcune sistemazioni per questi ragazzi. Da un punto di vista pratico, quello che state facendo ora è soprattutto cercare di aiutare chi va via a trovare un primo appoggio, un primo orientamento all'estero? Esattamente, sì, attraverso anche convenzioni che facciamo, per esempio a Londra abbiamo fatto una convenzione per l'insegnamento della lingua inglese. Vi preoccupa questa nuova ondata? Voi, insomma, tradizionalmente siete più ancorati in quella che è stata la storica emigrazione italiana degli anni 60, degli anni 50, sì. Però ce n'è un'altra adesso. Siete preoccupati? Molto più preoccupati di quella di massa degli anni 60 o 70, perché sono emigrazioni individuali e quindi hanno, come dire, una tortura dentro ognuno di queste persone. Cioè, la sera piangono, ecco, non è tutta rosa e fiori. Anche perché non si parte più in massa, come diceva lei, ma si parte da soli ed è una scommessa, spesso e volentieri. Assolutamente, poi la cosa che fa più rabbia è che le istituzioni in genere non ci pensano. Che idea vi siete fatti, al di là anche degli stereotipi, sui motivi per cui se ne vanno? Se ne vanno per trovare lavoro, perché non lo trovano in Italia. Anche voi avete l'idea che le stime ufficiali dell'AIRE, per esempio, siano ampiamente sottostimate? Per carità, proprio non esiste assolutamente. Cioè, l'AIRE già non si riesce con la vecchia emigrazione che era informata di queste cose, ma i giovani d'oggi non lo sanno assolutamente, poi non è uno strumento. Quindi non conosciamo i numeri reali, questa è la verità? Assolutamente, assolutamente. No, sono molto molto di più. Molto di più dei 70.000 stimati per l'anno scorso? Sì, assolutamente. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.uim.it. Un motivo per restare o tornare. Il 2014 lo dedicheremo ai giovani ricercatori italiani con un bando dedicato e finanziato con 50 milioni. Lo ha affermato il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza. Dobbiamo incrementare i fondi per la ricerca, ma in un'ottica di competizione nazionale per acquisirli. Devono essere i giovani ricercatori ad assumersi la leadership di empowerment. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Ritornare ma come? Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di novembre è: di fronte al rischio declino, l'Italia rivuole i suoi talenti ora all'estero o dice di rivolerli? Le mosse degli ultimi due governi vi convincono? Cosa fare di più? Cosa chiedete in tre concreti punti al sistema Italia per tornare? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.